Pochino, Everton era grande Braghera. Sono gonario, sono gonario. Un giorno l'han detto all'ufficiale che non trovando vino in cantina mi son bevuto la parecchina. Andavo in carice, beviamo insieme in oro bello, cantando tutti quanti un ottornello. Faccio un trifo al barabel, barabel, al barabel, al barabel, al barabel, al barabel, al barabel, al barabel. Questa è la canzone di Gonario l'Imbriagone. Questa è la canzone di Gonario l'Imbriagone. Al barabel, barabel, al barabel, al barabel, al Donario, io non conosco il calendario, se c'è domenica e chi lo sa, per me sempre può salare l'ulana. Le donne del paese sono tutte basse di me, sono più forte di una banda caffè. Ehi, sono donario, mi ha visitato ieri in primaria, ha detto che il fegato è una lattina e sta di tappa l'emoglobina. Ma che mi frega, me beviamo insieme il mondo è bello, cantando tutti quanti uno tornello. Faccio un trifo al barabel, al barabel, al barabel, al barabel, al barabel, al barabel, al barabel, al barabel. Questa è la canzone di Gonario l'Imbriagone. Questa è la canzone di Gonario l'Imbriagone. Al barabel, al barabel, al barabel.